Radio 24 Reportage. Crisi dietro le sbarre. Meno lavoro anche per i detenuti. Di Alessandra Schepisi. È una finestra aperta sull'esterno, anche di più, perché loro hanno nelle proprie corde il fatto di sviluppare questo pensiero laterale. Cioè loro, io la prima volta che sono entrato ho visto che utilizzavano le bottiglie d'acqua minerale di plastica, le mettevano, le incastravano all'esterno sulle grate e ci stendevano i panni. E cioè loro, chiaramente, avendo poche cose a disposizione, si devono attrezzare anche da un punto di vista creativo. Loro sono i detenuti del carcere di Rebibbia, quei pochi fortunati che riescono ad evadere con la fantasia e la creatività. Fortunati perché imparano un mestiere che potrebbe forse un giorno garantirgli un futuro. Pochi perché ad oggi i detenuti che lavorano nelle carceri italiane sono il 20%, 14.000 su 67.000, e solo 1.200, e cioè il 10% di questi 14.000, svolge un'attività qualificante, un lavoro artigianale, agricolo o industriale, che non sia cioè semplicemente pulire la cella o consegnare il vitto. Si lavora poco nelle carceri e ultimamente si lavora meno. Le risorse destinate a questo scopo sono state tagliate. La crisi economica approda anche dentro le sbarre, ma non mancano le esperienze virtuose come quella che vi stavamo raccontando del carcere di Rebibbia. Luca Modugno è il presidente della cooperativa R2. Noi lavoriamo con artisti contemporanei, gli facciamo fare dei progetti sulla decontestualizzazione e il riuso di oggetti comuni, quindi c'è anche un discorso di ecosostenibilità, e attivando questo processo di ideazione e di realizzazione di oggetti di design, ho pensato di far produrre poi gli oggetti a persone che si devono comunque rimettere in gioco, no? Quindi un recupero dell'oggetto è anche un recupero in realtà della persona che produce l'oggetto. E qui nel carcere di Rebibbia ho trovato il direttore, persona illuminata, che mi ha dato un piccolo spazio inizialmente per cominciare a fare una piccola produzione di questi oggetti. Oggi mi trovo con un laboratorio attrezzato, quasi professionale possiamo dire, dove possiamo lavorare qualsiasi tipo di materiale. Ma i detenuti lavorano in carcere o fuori dal carcere? Fino al 2012 hanno sempre lavorato all'interno del carcere, dopodiché ho pensato, siccome alcuni stavano uscendo dal carcere, ho pensato di aprire una cooperativa sociale. Questa cooperativa serve perché posso reinserire delle persone che stanno uscendo dal carcere all'interno del laboratorio che ho costruito anche al di fuori del carcere. Quindi una volta che escono possono continuare eventualmente? Perché loro hanno molto bisogno di questo, cioè hanno bisogno di un reinserimento nella società. Allora se escono e non trovano nulla da fare, spesso tornano a delinquere. Come detenuti hanno un turno di lavoro, una retribuzione? Come funziona? Loro hanno una retribuzione, una percentuale rispetto al pezzo prodotto. Qualche esempio di oggetto che viene prodotto? Una sedia fatta recuperando la moquette che viene utilizzata all'interno delle fiere, che ha vinto anche un paio di premi poi sul design. Catene di bicicletta e rocchetti che diventano dei centrotavole e dei vasi, riduttori dei fornelli che diventano portapane. Come si concilia poi tutto questo con la sicurezza? Cioè, per chi lavora in carcere, avere accesso a tutta una serie di materiali che insomma magari dentro al carcere spesso non entrano? Ovviamente nel mio laboratorio hanno qualsiasi cosa, cioè dal trapano a colonna alla sega circolare, quindi potrebbero comunque certo Vanno da un momento all'altro, però ecco, questo non accade e non accadrà, perché sanno bene che è una risorsa questa anche per loro. Carcere e lavoro, un binomio vincente ma sottovalutato, eppure il lavoro potrebbe contribuire a risolvere l'annoso problema del sovraffollamento delle carceri. Il detenuto che sconta la sua pena lavorando è poi meno recidivo e ha più possibilità di inserimento sociale rispetto a chi resta in cella senza far nulla. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Crocchette di baccalà e polenta, gaspaccio di rapa rossa, insalata di polpo con patate e paprika, spezzato di rana pescatrice con ceci e rosmarino. Questo è il menù dell'ultima cena galeotta preparata dai detenuti di Volterra. Un'altra esperienza virtuosa che vi vogliamo raccontare, la direttrice della casa di reclusione, Maria Grazia Giampiccolo. Il progetto delle serate galeotte nasce nel 2006. Da allora, devo dire, noi abbiamo raggiunto degli obiettivi veramente straordinari, perché in effetti abbiamo iniziato a realizzare queste serate, una al mese, il cui ricavato viene devoluto per i progetti di solidarietà sociale della Fondazione Il Cuore si Scioglie e dell'Unicop Firenze. Durante queste serate i detenuti che preparano proprio le portate che poi le servono a tavola vengono coordinati da degli chef particolarmente famosi, che quindi insegnano loro i trucchi del mestiere all'interno di una sorta di formazione on the job. È un'esperienza che ha consentito a 18 di loro negli anni di essere assunti da dei ristoranti di Volterra. È un'esperienza che ha consentito di aver raccolto svariate decine di migliaia di euro per gli interventi di solidarietà sociale. Ha invertito lo stesso concetto di solidarietà sociale in carcere, perché normalmente sono i detenuti i destinatari, invece all'interno di questo progetto sono loro che si adoperano a favore di chi sta male, in particolar modo dei bambini. E poi devo dire che in questi anni sono entrate in istituto all'incirca 10.000 persone, e devo dire anche questo è un risultato veramente importante, perché sono persone che comunque hanno potuto prendere visione di un'altra faccia della realtà. Ecco, ma i detenuti lavorano, cucinano dove fisicamente? Cucinano nelle nostre cucine, in quelle che normalmente quotidianamente vengono utilizzate per confezionare i pasti per la restante popolazione detenuta. E loro come hanno accolto questa iniziativa? Perché a parte la formazione, il poter apprendere un mestiere, è anche un modo di evadere, no? Attraverso la fantasia, la creatività, inventando sapori, profumi, no? Ma sicuramente, non per nulla le prime serate erano ispirate alle culture culinarie dei paesi di provenienza dei cuochi, serate arabe, siciliane, calabresi, come dire, sicuramente anche da questo punto di vista è un recupero sensoriale forte, anche con una parte veramente creativa. Eppure in Italia, dicevamo, diminuisce il numero di chi lavora. L'82% delle condanne viene scontato all'interno di pochi metri quadri di cemento armato, mentre in Francia e il Regno Unito avviene quasi l'esatto contrario, con il 75% delle condanne che viene scontato lavorando all'esterno. Ma facciamo il punto con Fabrizio Gonella, presidente di Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale. La situazione è stata certificata nei giorni scorsi dalla stessa amministrazione penitenziaria, che ha reso pubblici i dati di quest'anno. Ovviamente c'è una situazione determinata dalla mancanza di risorse. Se nel 2010 il budget per comprare macchinari per l'elaborazione industriale e manifatturiere dentro il carcere era di 11 milioni di euro, nel 2012 è stato ridotto a poco più di 3 milioni di euro. Complessivamente, secondo i dati più aggiornati dell'amministrazione penitenziaria, lavora un detenuto su 5, e molte di queste attività in cui sono impegnate sono attività di amministrazione domestica, non di grande pregio e di grande qualificazione: scopino, spesino, portavitto, così vengono chiamati. Servono a guadagnare qualche soldo per la vita interna al carcere, per comprarsi le sigarette, non per, diciamo, imparare un mestiere. Ma rispetto agli altri paesi europei come ci collochiamo? Purtroppo verso il basso, mentre un tempo ci collocavamo in una media europea, diciamo, più verso l'alto, perché ci sono tutti i paesi, soprattutto del centro nord Europa, dove, diciamo, non dico che si sfiori la piena occupazione all'interno delle carceri, però, diciamo, una grande percentuale di detenuti svolgono attività che sono tutte molto legate a esperienze di mestieri manuali, mestieri che ridiano un senso alla detenzione. Molti sono impegnati in attività agricole, in attività legate al sostentamento dello stesso istituto. È vero che il detenuto che sconta la sua pena lavorando ha una possibilità di gran lunga superiore di tornare, come dire, sulla retta via, di poi reinserirsi nel mondo lavorativo e anche c'è un minor tasso di recidiva? C'è un tasso di recidiva inferiore di coloro che all'interno sono stati impegnati in attività formativo-professionali, lavorative ed educative. Il punto non è solamente lavorare per guadagnare, ma lavorare per prendere coscienza, lavorare per sentire di poter fare qualcosa di utile e di gratificante per se stesso, che non sia invece il ritorno all'attività criminale. Il lavoro dunque come parte di quel complesso mosaico che dovrebbe contribuire a restituire la dignità al detenuto, o perlomeno un nuovo senso alla propria vita che non sia quello del crimine. Voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.